Quando andiamo a spasseggiar, morettina come va? Lascia pure i bersaglieri, lascia pure i bersaglieri, lascia pure i bersaglieri. Se ti vuole marita, se ti vuole marita, morettina come va? Te lo hai detto tante volte, non portare fiori in testa. Quando andiamo a spasseggiar, quando andiamo a spasseggiar, morettina come va? Quando andiamo a spasseggiar, quando andiamo a spasseggiar, morettina come va? Lascia pure i bersaglieri, lascia pure i bersaglieri, lascia pure i bersaglieri. Se ti vuole maritar, se ti vuole maritar, morettina come va? Te lo hai detto tante volte. Portare fiori in testa, solamente di la festa. Quando andiamo a spasseggiare, quando andiamo a spasseggiare, morettina come va.